Vorrei fare alcune due o tre premesse proprio di tipo metodologico per cercare di capire meglio quello che dirò. E un altro aspetto ancora che va in ogni modo tenuto in debita considerazione, il tempo è quello che è, per cui io vorrei anch'io lasciare un po' di spazio alle domande, no? E l'argomento da trattare in realtà è quello di un corso universitario, nel senso che ecco, a proposito di interesse, io sono stato l'unico nell'ambito di questa università in anni passati ad aver fatto corsi sulla Repubblica Sociale e come si chiama, sulla Resistenza, sulla Repubblica Sociale e sulla nascita della Repubblica. Occorre dire che ci avevo pensato anche per l'anno prossimo. Non lo posso fare. Non lo posso fare perché non ci sono i testi. Cioè, nel senso che voi sapete che in realtà i corsi universitari non sono in realtà, ahimè, legati al volere del docente. Sono legati in realtà al problema del quanto il mercato librario offre. Allora, io posso dire a certi studenti se volete leggere il tal libro a scelta ve lo andate a leggere in biblioteca. Non posso dire i libri base non ci sono, sono solo in biblioteca, andateli a leggere in biblioteca. E quindi è evidente che quando un docente universitario fa un corso, no, la prima cosa che si pone, il primo problema che si pone è: ci sono i libri in circolazione? No, allora il corso non si fa. Devo dire che quest'anno le ho provate tutte perché mi sarebbe piaciuto l'ultimo corso che ho fatto sulla Repubblica Sociale, credo risalga ormai a più di 10 anni fa, abbondanti. Invece non è possibile. Però rispetto alla situazione attuale, cioè a voi qui presenti che ancora ringrazio, ecco, l'ultimo corso che ho fatto sulla Repubblica Sociale era molto affollato. Perché evidentemente erano gli anni in cui, alla fine degli anni 90, l'inizio del nuovo secolo, chiamiamo così, in cui tutto il problema della resistenza, della Repubblica Sociale, che per anni era stato soppinto, è ritornato in realtà prepotentemente alla ribalta. Anche perché un certo partito, erede proprio di uno dei, erede dell'unico partito esistente durante la Repubblica Sociale, era nuovamente nell'area di governo, è entrato poi nell'area di governo, pur con tutti gli aggiustamenti del caso, e quindi evidentemente c'era una ripresa di interesse per queste tematiche, ripresa di interesse che mi sembra di aver capito a questo punto è nuovamente scemato. Quindi questa è una delle premesse. La seconda premessa è quella che il discorso sarà necessariamente storico. Io non voglio entrare in nessun tipo di discorso di natura politica perché non mi compete, io faccio lo storico e non il politico. Tenendo presente però e partendo da un presupposto che quando ormai, ahimè, parecchi anni or sono ero giovane studente, una delle prime cose che ho imparato nei corsi di storia all'interno di questa università, nei corsi di storia contemporanea, è che per quel che riguarda la storia contemporanea e per quel che riguarda la storiografia italiana, se parliamo di storici inglesi e americani è diverso, no? Il nesso politica-storiografia è inscindibile. Cioè tutto quello che viene scritto a livello storiografico è una derivazione diretta di determinati aspetti che possiamo chiamare politici in senso stretto o ideologici, se meglio preferire. E quindi qualsiasi libro scritto da qualsiasi storico di storia contemporanea non è mai neutro, esprime sempre in realtà le opinioni di chi le scrive e sulla base di chi le scrive. Quindi è evidente poi che su un argomento di questo genere, com'è quello dicevo, no, che soprattutto poi in un periodo come quello legato alla Repubblica Sociale, legato alla Resistenza, che poi in realtà quello che si vuole ignorare da un certo punto di vista, dunque è un periodo pieno di rimozioni, su questo non c'è nessun dubbio, ma soprattutto quello che si vuole ignorare è che lo studio della Repubblica Sociale e della Resistenza non sono fini a se stessi, perché è lo studio dell'origine della Repubblica, cioè dell'attuale Repubblica in cui noi siamo attualmente. Tant'è vero che i miei corsi erano sempre strutturati, sì, sulla Repubblica Sociale e la Resistenza, ma arrivavano fino al 48, proprio perché la nascita della Repubblica è strettamente connessa con tutta una serie di problematiche legate strettamente a questi due periodi. E quindi questo da un altro punto di vista, è un aspetto da tenere nella debita considerazione. Ho detto appunto, è un periodo pieno di rimozioni. Il terzo punto, che è secondo me altrettanto fondamentale, è che, dunque lei è Iamartino, giusto? Iamartino nell'introduzione ha detto siamo partiti da lì, poi siamo tornati indietro, poi siamo tornati nuovamente indietro e io a un certo momento tra me stesso pensando dicevo tra un po' arriviamo all'unità d'Italia, no? E vediamo così. Però su una cosa ha ragione, e lui non ha avuto il coraggio di ritornare un momento più indietro. Cioè ci torno io. Cioè la data giusta di partenza non è, come ha indicato lui, l'8 settembre. La data giusta di partenza è il 25 luglio, cioè la data caduta del fascismo. E non perché è la data della caduta del fascismo e poi il fascismo rinasce sotto forme diverse, peraltro, durante la Repubblica Sociale. Bensì per un altro motivo, che adesso dirò. Vorrei anche chiarire che in realtà il periodo in questione, pur essendo cronologicamente brevissimo e anzi a livello di, diciamo così, discorso storico quasi irrilevante, nel senso nella storia si ragiona in termini di decenni e di secoli, no? Qua stiamo ragionando in termini di 625 giorni, se non vado errato, per la Repubblica Sociale, più i 45 giorni di Badoglio. No, ecco, quindi come vedete è una goccia nell'oceano. Però dicevo, è un periodo talmente denso di avvenimenti che in realtà il tutto andrebbe correlato a tutta una serie di avvenimenti che succedono. È ovvio che in un corso universitario si può fare, in questo momento no.